Nel 1971 Desmond Morris pubblicò Il comportamento intimo, libro che l'anno dopo poi venne pubblicato in versione italiana. In questo libro il noto zoologo britannico indagava sulle radici dell'intimità e analizzando nelle diverse fasi evolutive che contraddistinguono la nostra esistenza biologica, notava come noi si sia destinati a finire come neonati avvolti nel sudario e stretti nella bara, imbottita come la culla della nostra prima infanzia, cullandoci metaforicamente in quell'eternità che sostituirebbe le braccia materne. Come il ciucciotto o il sigaro, insomma, anche la bara moderna risponde ad esigenze di intimità simbolica. In quello stesso 1971, il 13 settembre, un lunedì, l'industria cofani funebri Ilea di Spresiano, in provincia di Treviso, compra mezza pagina del Corriere della Sera per reclamizzare il proprio prodotto. È la grande fotografia di un cielo dove la nuvolaglia sta per essere sopraffatta dalla luce solare, o viceversa, dove la luce solare sta per essere sopraffatta dalla nuvolaglia, e dove in basso spicca la fotografia di una bara che all'occhio dell'esperto avrà fatto sicuramente bella mostra di sé. In grande lo slogan recitava Ilea, ultima cosa, e la discretissima didascalia diceva: ciò che di più caro si considera, gelosamente si custodisce e degnamente si racchiude. L'argomentazione, oltre ad essere decisamente insostenibile, perché nessuno della persona amata tiene particolarmente a ciò che biochimicamente rimane dentro una bara, se no se la terrebbe in casa, sulla console magari, l'argomentazione era neppur tanto vagamente ricattatoria. Come dire che se la confezione non costa, la merce ivi contenuta non vale. Tuttavia, si poteva anche prendere questo come un primo segnale merceologico, a quanto mi consti, del tentativo di superamento in atto di un'ostica barriera eretta dall'imbarazzo sociale che la morte genera in ogni tempo e in ogni paese. Dopo quasi 30 anni, grazie alla segnalazione di una cortesissima ascoltatrice, possiamo verificare a che punto siamo in materia. Allora, in un recente inserto del Corriere della Sera è stata pubblicata una mezza pagina con la medesima fotografia riprodotta due volte, una in bianco e nero e l'altra a colori. Dall'alto si vede gente che guarda una bara. In quella bianco e nero sta scritto in grande finale e in piccolo: sarebbe bello che alla nostra cerimonia funebre pensassimo noi, sarebbe come essere presenti al nostro funerale. In quella a colori sta scritto gran finale e in piccolo: da oggi con la ditta Tal dei Tali è possibile, prendete un appuntamento per visitare la nostra showroom, rimarrete stupiti delle nostre proposte. Io non oso pensare cosa sia uno showroom, ma li capisco. I morti che si rivolgevano a loro per comprarsi una bara dovevano essere pochi e dunque occorreva affidarsi a comunicazioni forti per pescare nuovi clienti tra i vivi, vivi che possano ancora disporre del proprio patrimonio e non badare a spese, vivi che mutino paradigma ideologico rispetto alla comunicazione dell'Ilea del 1971 e che non si affidino dunque ai criteri archivistici altrui. Scegliersi un gran finale in luogo di un banale e semplice finale, è un po' come seppellirsi con Frizzi, la Carrà e Pippo Baudo assieme. C'è il colore, ci sarà anche la musica, le ballerine dello showroom, la cassa sarà digitale 24 pollici con una parabolica da qualche parte. Siamo vicini al 3x2, tutto ciò non mi dice ugualmente niente di buono. La morte continua a essere esorcizzata alla meno peggio, l'impaccio della parola, le vistose dissonanze del linguaggio tradiscono nervosismo. Dal bianco e nero al colore e nell'offerta di un confronto fra una sepoltura opaca e una brillante, la tecnica persuasoria è rimodellata sul prima della cura e dopo la cura, cioè sul livello più basso dell'argomentazione, quello in cui un prodotto, messaggio e destinatario sono accomunati dalla medesima disgrazia. Che si tratti di una comunicazione sofferente, d'altronde è anche confermato dai due nomi chiamati in causa. L'inserzione pubblicitaria è stata fatta su Vivi Milano, che come invito ai defunti è quantomeno irridente, e la ditta in questione, andando poco più in là del calco linguistico di riferimento, la ditta in questione si chiama Prima Cassa, facendo conto sulla rarità delle seconde.